Ad un tratto capii il bollettino. Capii anche le voci che avevo udito in giro. Queste voci dicono il vero, mio Dio, dicono il vero. 10.000, 100.000 uomini brancolano tra la neve, piangono di dolore come bambini perché si sentono gelare le membra e da ultimo cascano e non possono più rialzarsi. Lupi affamati formano una catena che li stringe e si vorrebbero sparargli, ma non possono più reggere il fucile. Urlano allora per la disperazione, i lupi indietreggiano un poco, è già il crepuscolo. La notte sarà lunga. I lupi aspettano, con la furia della disperazione. I pontieri gettano un ponte su di un fiume che si chiama Berezina. La via del ritorno passa per questo ponte. I cosacchi sono già molto vicini. Da un momento all'altro il ponte sarà fatto saltare per fermarli. Perciò gli uomini estenuati accorrono, barcollando con le loro ultime forze, si buttano in avanti, si spingono, stramazzano e sono calpestati dai loro compagni. Il ponte scricchiola in tutte le sue giunture, purché si passi di là, verso la vita. Chi non riesce a farsi strada è sospinto fuori, precipita urlando tra i blocchi di ghiaccio, cerca di aggrapparsi, è trascinato dalla corrente, urla, urla e affonda. Ma la salute di Sua Maestà non è mai stata migliore. «E la Francia, Madame!» ripetei con voce sorda. «E che? Bonaparte non è mica la Francia?» Giuseppina sorrideva alle sue unghie sfavillanti. Napoleone I, per grazia di Dio, imperatore dei francesi. Mi strizzò l'occhio. Noi due sappiamo bene come lo è diventato. Barrà ha bisogno di qualcuno che reprima una rivolta di affamati e Bonaparte è pronto a sparar cannonate sul popolo di Parigi. Bonaparte diventa governatore militare di Parigi. Bonaparte ottiene il comando supremo del Sud. Bonaparte conquista l'Italia. Bonaparte in Egitto. Bonaparte primo console. Si interruppe. Forse lei nella sventura lo abbandonerà, soggiunse compiaciuta. Ma lei è la madre di suo figlio, protestai. Ma Giuseppina scosse la testolina con le sue delicate ciocche infantili. Ah, questo non significa nulla. Io, per esempio, sono sempre stata più donna e moglie che madre. Questa Maria Luisa, una ragazza di eccellente famiglia, è probabilmente più figlia che moglie o madre. Io sono stata incoronata dalle mani del mio Bonaparte. Invece Maria Luisa è stata maritata a Napoleone da suo padre, per grazia di Dio. Qualunque cosa succeda, non dovete dimenticare quello che vi ho detto, Desirée. Me lo promettete? Io la guardai sconcertata. Resti tra noi. Ci sono delle dinastie più aristocratiche della famiglia Bernadotte, Desirée. Ma gli svedesi si sono scelti Giambattista e Giambattista non li deluderà, sa governare. Il mio Bonaparte lo ha sempre affermato. Ma voi, piccina mia, voi non sapete nulla di governo né di altro. Date almeno un po' di gioia agli svedesi e siate bella. Crema d'oro e rosso ciclamino e... Oh, ma il mio naso all'insù! Beh, quello non lo possiamo cambiare, ma vi sta bene. Avete un aspetto così giovane. Sembrerete più giovane sempre di quello che siete. Ecco, e adesso scendiamo in salotto e ci facciamo leggere le carte da Teresa. Farà un grosso giuoco per Bonaparte. Peccato che piova. Avrei fatto vedere volentieri il giardino al vostro conte svedese. Le rose gialle rifioriscono sempre, ma adesso naturalmente affogano nella pioggia. A metà della scala, Giuseppina improvvisamente si fermò. Desirée, ma perché non siete a Stoccolma? Non la guardai in faccia. A Stoccolma c'è una regina e una regina vedova. Non bastano forse? Avete paura delle donne che vi hanno preceduta? Mi venne da piangere, ma repressi le lacrime. È assurdo. Chi ci ha preceduto non è mai pericoloso. Solo chi ci succede, mormorò Giuseppina, e trasse poi un sospiro di sollievo. Vedete? Temevo che foste qui per lui, perché voi lo amate sempre, Bonaparte. Nel salotto giallo, le dame di corte di Giuseppina stavano fabbricando interminabili bende di garza. Sul prezioso tappeto, proprio davanti al camino, stava accoccolata Paulette e avvolgeva le bende in strettissimi rotoli. La regina Ortensia era sdraiata su di un divano e leggeva delle lettere. Una signora spaventosamente grassa si raggomitolava dentro uno scialle persiano e aveva l'aspetto di un pallone variopinto. Il pallone variopinto stava facendo un solitario. Il mio giovane conte Rosen era in piedi presso la finestra e osservava desolato la pioggia. Al nostro ingresso le dame si levarono in piedi, soltanto la bella Paulette sdrucciolò dal piede sinistro sul destro. Il pallone variopinto si sprofondò davanti a me in un inchino di etichetta. Vostra Altezza si ricorda ancora forse della principessa Chimay? Domandò Giuseppina. Ella mi chiama Desirée soltanto quando siamo sole. La principessa Chimay, il nome di un'incredibilmente antica, distintissima, casata patrizia. Ero più che convinta di non aver mai incontrato alcun componente di questa terribilmente aristocratica famiglia. Notre-Dame de Thermidor, rise Giuseppina, la mia amica Teresa. Teresa, l'amica di Giuseppina. La marchesa de Fontenay, che durante la rivoluzione aveva sposato l'ex cameriere Tallien per salvare la propria testa. Tallien era deputato e Teresa divenne la prima signora del direttorio. Dicono che abbia ballato in presenza dei suoi ospiti nuda come Dio l'ha creata. D'altra parte, ella procurò allora a Napoleone dei calzoni nuovi. Quelli vecchi erano completamente sdrucciti. Io sono entrata allora in casa sua per cercare il mio fidanzato, ma ve l'ho perduto. E ho trovato Giambattista. La sua reputazione era ancora peggiore di quella di Giuseppina, che proprio allora aveva licenziato il suo amante, direttore Barrà. Napoleone le ha proibito di comparire a corte. È diventato terribilmente moralista da quando è imperatore. La povera Teresa se n'è tanto angustiata. Lei, l'amica del cuore di Giuseppina. Alla fine decise di far arrabbiare Napoleone e sposò il principe Chimay. Così ebbe 7 bambini e diventò un pallone. Ma i suoi occhi neri ridevano irresistibili. Napoleone sarebbe stato ben lieto di ricevere alle Tuileries l'aristocratico principe, antichissima nobiltà francese, non è vero? Ma il principe non si fece vedere perché Napoleone manteneva sempre il suo divieto per Teresa. Ha ballato nuda come un verme. Napoleone non lo può dimenticare. Sicuramente c'era anche lui a vedere. Sono lieta di rivedervi, principessa, dissi senza pensare. Rivedervi? Gli occhi di Teresa si spalancarono, tanto quanto lo consentivano i cuscinetti di grasso delle guance. Non ho ancora avuto l'onore di esservi presentata. Desirée, l'imperatrice vi ha applicato della crema dorata sulle palpebre, non è vero? Si udì dalla parte del camino. Paulette, magra e fragile, ornata delle perle dei principi di Borghese, mi stava esaminando. Ma state bene? Dite un po', piccola nuova principessa di Svezia, è sordomuto il vostro aiutante laggiù alla finestra? No, soltanto muto, Altezza Imperiale, scattò Rosen, stizzito. Capii subito che avevo commesso un errore conducendo lì il giovane svedese. Subito Giuseppina gli posò la mano sottile sul braccio, lievissimamente, ma Rosen sussultò. Se smetterà di piovere vi farò vedere il giardino. Qui da me fioriscono le rose ancora a dicembre. Vi piacciono le rose, non è vero? Avete il loro stesso nome. Intanto lo guardava con malizia di sotto in su, sorrideva senza far vedere i suoi denti guasti e affondava lo sguardo negli occhi di lui. Dio sa come le riesca tutto questo. Poi si rivolse agli altri. Che cosa scrive il conte Flahold alla Russia Hortensia? L'amante di Hortensia? È aiutante dell'imperatore. Da quando ella non convive più col grasso Luigi, la sua relazione è tranquillamente accettata nel salotto di sua madre. Cammina a fianco dell'imperatore nella neve, disse Ortensia con orgoglio. Bonaparte cammina nella neve? Oh, probabilmente viaggia in slitta. E il tuo Flahol non scrive che un mucchio di assurdità. Il conte Vlahol mi comunica che da Smolensk in poi cammina a fianco dell'imperatore. L'imperatore è costretto ad andare a piedi perché quasi tutti i cavalli sono morti congelati, gelati o uccisi e mangiati dalle truppe affamate. L'imperatore porta il cappotto di pelliccia che ha avuto in dono a suo tempo dallo zar e un berretto di persiano. Si appoggia durante la marcia ad un bastone e, accompagnato da molti generali che hanno perduto i loro reggimenti, cammina tra Murat e il conte Vlahol. Assurdo. Il suo fedele Meneval gli camminerà al fianco, intervenne Giuseppina. Ortensia cercò tra le molte pagine della sua lettera. Meneval è caduto per sfinimento ed è stato caricato su un carro di feriti. Si fece allora un grande silenzio nella stanza. Un ciocco crepitava nel camino, eppure noi avevamo freddo. Farò dire domani una messa propiziatoria, mormorò Giuseppina. La sera tornammo a Parigi in carrozza. Temo che vi siate annoiato assai alla Malmaison, Conte Rosen, ma volevo presentarvi la più bella donna di Francia. Bah, l'imperatrice Giuseppina è certo stata molto bella una volta, rispose cortesemente il giovane. È invecchiata in una sola notte, pensai. Anch'io un giorno invecchierò, con o senza crema d'oro sulle palpebre. Speriamo non in una notte, ma questo dipenderà da Giambattista. Le signore della Malmaison sono molto diverse dalle nostre signore di Stoccolma, osservò a un tratto Rosen, e parlano delle loro preghiere e delle loro avventure amorose. Eppure si prega e si ama anche a Stoccolma. Certo, ma non se ne parla. Parigi, 19 dicembre 1812. Da quando sono stata in visita alla Malmaison piove ininterrottamente, ma nonostante la pioggia, la gente in questi giorni si ferma agli angoli di tutte le strade, leggono su fogli di giornale inzuppati il bollettino numero 29 e cercano di persuadersi che davvero i loro figli sono morti di gelo in Russia. A tutti gli angoli delle strade aspettano conforto e nuove notizie. Aspettano invano. Non conosco una sola famiglia che non abbia in Russia un parente stretto. In tutte le chiese si celebrano funzioni religiose propiziatorie. Ieri sera non potevo coricarmi. Vagavo irrequieta dall'una all'altra stanza. L'anticamera di Moreau era fredda, solitaria e troppo grande per me sola. Da ultimo mi buttai sulla vestaglia la pelliccia di zibellino di Napoleone. Mi sedetti allo scrittoio del salotto piccolo e cercai di scrivere ad Oscar. Maria stava seduta in un angolo e lavorava a maglia uno sciarpone grigio. Da quando ha udito raccontare del freddo glaciale della steppa russa, lavora a questa sciarpa per Pierre. Di lui non abbiamo notizie. I ferri tintinnavano, le labbra di Maria si muovevano senza voce. Di quando in quando si udiva il rumore di un giornale spiegazzato. Il conte Rosen legge i giornali danesi. Quelli svedesi da molti giorni non si ricevono più. Adesso sta studiando le notizie della corte danese. La flotte e la servitù erano già andati a letto da un pezzo. Io mi aggrappavo tutta al pensiero di Oscar. Volevo scrivergli che stesse attento quando pattina per non rischiare di rompersi una gamba. Se fosse qui, tra un paio d'anni, sarebbe chiamato alle armi. Oh, come sopportano questo le altre madri. Maria lavora a maglia, in Russia la neve cade senza tregua, soffice e lieve, e seppellisce i figli. In quel momento udii la carrozza. Si fermò davanti alla casa, poi bussarono con grandi colpi alla porta. La servitù è già andata a letto, dissi. Aprirà il cocchiere svedese che sta dal portinaio, disse Maria. Stemmo ad ascoltare, trattenendo il respiro, udimmo delle voci nell'atrio. Non ricevo nessuno, mi sono ritirata, dissi in fretta. Il conte Rosen uscì dal salotto. Subito dopo udì il suo aspro francese. Una porta si aprì, accompagnò qualcuno nel salotto grande e attiguo. E ammattito? Gli ho detto che non ricevo più nessuno. Esci subito e fa sapere che sono andata a letto, Maria. Maria si alzò subito ed entrò per l'uscio di comunicazione nel salotto grande. La udì incominciare una frase e ammutolire subito. Nella stanza accanto il silenzio era adesso assoluto. Oh, è incomprensibile che a quest'ora si faccia entrare qualcuno contro il mio volere. Udii rumore di carta spiegazzata e di legna che cadeva. Il cocchiere accendeva il fuoco nel camino grande, i soli rumori che giungevano fino a me. Del resto, un profondo silenzio regnava nella camera attigua. Finalmente la porta si aperse. Entrò il conte Rosen. I suoi movimenti erano stranamente rigidi e studiati. Sua Maestà, l'imperatore. Io sobbalzai. Credetti di non aver ben capito. Chi? Sua Maestà è arrivato in compagnia di un signore e desidera parlare a Sua Altezza. L'imperatore è al fronte, sussurrai smarrita. Sua Maestà è ritornato or ora. Il giovane svedese era pallido per l'agitazione. Io intanto ero tornata calma. È assurdo. Io non mi lascio intimidire e neppure mi lascio mettere in questa situazione terribile. Non voglio rivederlo, almeno non ora e non da sola. Dite a Sua Maestà che sono già andata a coricarmi. L'ho già detto, Sua Maestà insiste nel voler parlare subito a Vostra Altezza. Io non mi mossi. Che cosa si può dire ad un imperatore che pianta in asso il suo esercito nei campi di neve? No. Non l'ha piantato in asso, L'esercito non esiste più. Ha perduto l'esercito e viene prima di tutti da me. Mi alzai lentamente, mi scostai i capelli dalla fronte, mi venne in mente che indossavo la mia vecchia vestaglia di velluto e su quella la pelliccia di zibellino e che certamente dovevo apparire piuttosto ridicola. Malvolentieri mi diressi verso l'uscio. Lui sa adesso che Giambattista è alleato dello zar e che gli ha consigliato come difendersi. Lui sa adesso che i consigli di Giambattista sono stati eseguiti. Ho paura, conte Rosen, confessai. Il giovane svedese scosse il capo. Credo che Vostra Altezza non debba aver affatto paura. Nel salotto grande c'era molta luce. Maria stava mettendo delle candele nell'ultimo degli alti candelabri. Il fuoco divampava. Sul divano, sotto il ritratto, era seduto il conte Caulaincourt, il grande scudiero dell'imperatore, un tempo terzo aiutante del primo console. Caulaincourt portava una pelliccia di pecore e un berretto di lana che si era tirato fin sulle orecchie, teneva gli occhi chiusi e pareva che dormisse. L'imperatore era in piedi, proprio davanti al fuoco. E appoggiava le braccia alla cornice del camino. Le sue spalle erano curve in avanti. Sembrava stanco al punto di cercare un appoggio per reggersi in piedi. In capo, di sbieco, aveva un berretto grigio di persiano. Non sembrava assolutamente più lui. Nessuno dei due mi udì entrare. Sire, dissi sottovoce e mi avvicinai all'imperatore. Caulaincourt balzò in piedi, si strappò dal capo il berretto di lana e si mise sull'attenti. L'imperatore alzò lentamente la testa. Io dimenticai di inchinarmi, fissavo smarrita il suo volto. Per la prima volta nella mia vita vedevo Napoleone con la barba non rasata. I peli della sua barba erano rossicci, le guance enfiate, flaccide grigie. La bocca era sottile come una riga e il mento smagrito, aguzzo. I suoi occhi senza sguardo si volsero verso di me. Conte Rosen, hanno dimenticato di togliere a Sua Maestà il berretto, dissi io, aspra, e anche la pelliccia. Ho freddo. Tengo indosso il cappotto, mormorò Napoleone e si levò stancamente il berretto di pelo. Rosen portò via la pelliccia di pecora di Caulaincourt. Tornate subito, conte. Maria, cognac e bicchieri, ti prego. Maria dovette assumere la parte di dama di corte. A quell'ora io non ricevo da sola degli uomini, neppure l'imperatore di Francia, anzi, lui meno degli altri, e il conte Rosen deve essere testimone del nostro colloquio. Vi prego di accomodarvi, sire, dissi e mi sedetti sul divano. L'imperatore non si mosse. Caulaincourt stava in piedi, indeciso, in mezzo alla stanza. Il conte Rosen ritornò. Maria portò del cognac e dei bicchieri. Sire, un bicchiere di cognac. L'imperatore non mi udì. Abbiamo viaggiato per 13 giorni e 13 notti, mormorò Caulaincourt. Alle Tuilerie non si sa ancora che siamo ritornati. Sua Maestà voleva prima parlare con Vostra Altezza. Una cosa fantastica. L'imperatore viaggia per 13 giorni e 13 notti. Sembra che si aggrappi come uno che annega alla cornice del mio camino e nessuno sa che lui si trova a Parigi. Riempii di cognac un bicchiere e mi avvicinai a lui. Sire, bevete, vi riscalderà. Dissi questo a voce molto alta. Egli alzò finalmente la testa e mi guardò. Osservò la mia vecchia vestaglia, la pelliccia di zibellino che lui mi aveva regalato e poi d'un fiato tracannò il cognac. È di moda portare le pellicce sulla vestaglia in Svezia? Si informò. No, certo, ma avevo freddo. Sono rattristata e la tristezza mi dà freddo. Del resto il conte Rosen vi avrà detto che ero già andata a coricarmi. Chi? Il mio aiutante, il conte Rosen. Venite, conte, vi presenterò a Sua Maestà. Il conte Rosen serrò i tacchi facendo suonare gli speroni. L'imperatore gli allungò il bicchiere. Datemi un altro cognac. Anche Caulaincourt berrà volentieri un bicchiere. Abbiamo dietro di noi un lungo viaggio. Trangugiò di nuovo d'un fiato il cognac. Siete sorpresa di vedermi qui, Altezza? Naturalmente, sire. Naturalmente. Ma noi siamo vecchi amici, Altezza. Amici addirittura antichi, se ben mi ricordo. Per qual motivo vi sorprende la mia visita? Per l'ora tarda, sire, e per il fatto che venite da me senza esservi rasato. Napoleone si passò la mano sui peli ispidi del mento. Un'ombra del suo riso giovane, spontaneo dei giorni di Marsiglia, guizzò su quel viso flaccido e grave. Perdonatemi, Altezza, mi sono scordato in questi ultimi giorni di radermi. Volevo arrivare a Parigi il più presto possibile. L'ombra del riso scomparve. Che effetto ha fatto il mio ultimo bollettino? Non volete sedervi, sire? Proposi. Grazie, preferisco stare in piedi qui davanti al camino, ma voi non incomodatevi, sedete pure, signori. Mi sedetti di nuovo sul divano. Posso domandare, sire? Incominciai. No. Non potete domandare, madame. Non potete domandare proprio nulla, madame Giambattista Bernadotte. Ruggì e si volse verso di me. Il conte Rosen sobbalzò, sgomento. Ma io desidererei conoscere a che cosa debbo l'onore di questa visita inattesa, sire, domandai con voce calma. La mia visita non è per voi un onore, ma una vergogna. Se per tutta la vita non foste stata sempre una creatura puerile e spensierata, capireste ora quale vergogna rappresenti per voi la mia visita, Madame Giambattista Bernadotte. Restate calmo, Conte Rosen. Sua maestà è evidentemente troppo stanco per poter trovare il tono giusto, dissi al mio giovane svedese per calmarlo. Il Conte Rosen era balzato in piedi e per di più con la mano sulla spada. Non ci mancava altro per me quella notte. L'imperatore non udì. Si avvicinò e prese a fissare il ritratto appeso sul mio capo, il ritratto del primo console, il ritratto di Napoleone giovane dal volto scarno, con gli occhi sfavillanti, i capelli scomposti che gli scendevano fin sulle spalle. Incominciò a parlare in fretta, con voce sorda, rivolgendosi a quel ritratto più che a me. Sapete da dove vengo, madame? Vengo dalle steppe dove giacciono i miei soldati sepolti. Laggiù gli usari di Murat si trascinano sulla neve, i cosacchi hanno ucciso i loro cavalli, gli usari sono accecati dalla neve e gemono per il dolore. Sapete voi? Avete voi un'idea di che cosa significa accecati dalla neve, madame? Vengo da quel ponte che si è schiantato sotto il peso dei granatieri di Davout. I blocchi di ghiaccio hanno spezzato il cranio ai granatieri. L'acqua si tingeva di rosso. Molti uomini quella notte si sono rannicchiati sotto i cadaveri dei loro compagni per scaldarsi. Io ho... Come farò a mandargli la sciarpa? Come farò? L'urlo di Maria troncò le sue parole. Maria era balzata in piedi e si era precipitata verso l'imperatore. Gli cadde davanti, in ginocchio, e si aggrappò al suo braccio. Sto facendo una sciarpa di lana per il mio Pierre. Potrà mettersela fin sopra le orecchie, ma io non so come mandargliela. Vostra maestà ha dei corrieri. Maestà, aiutate una madre, mandate un corriere. Disgustato, Napoleone indietreggiò. Ma Maria lo seguì, trascinandosi, artigliandogli le braccia con le dita. Subito mi chinai su di lei. È Maria, sire, la Maria di Marsiglia. Suo figlio è in Russia. Napoleone si svincolò. Il suo viso era contratto dall'ira. Ho segnato il suo reggimento. Si potrà trovarlo facilmente, piagnucolava Maria. Questa sciarpa soltanto, questa. Siete pazza, signora? Agli angoli della bocca di Napoleone comparvero delle bollicine di schiuma. Che io mandi in Russia una sciarpa, c'è da ridere! E incominciò a ridere. Si scuoteva tutto, gemeva, soffiava tra le risa. Una sciarpa per i miei 100.000 morti, per i miei granatieri gelati, una bella sciarpa calda per la mia grande armata. Aveva le lacrime agli occhi dal gran ridere. Condussi Maria alla porta. Va a dormire, cara. Va a dormire adesso. Napoleone era ammutolito. Sconcertato se ne stava ritto in mezzo al salotto. Poi, a passi stranamente rigidi, si accostò alla sedia più vicina e vi crollò sopra. Perdonate, madame, sono molto stanco. I minuti passavano lenti, nessuno di noi si muoveva. È la fine, pensai. I miei pensieri viaggiavano attraverso il continente, oltre uno stretto di mare, raggiungevano Giambattista nel Castello Reale di Stoccolma. Una voce dura, limpida. Sono venuto a dettarvi una lettera per il maresciallo Bernadotte, madame. Vi prego di fare scrivere questa lettera da uno dei segretari di vostra maestà. No, desidero che scriviate voi questa lettera, madame. È una lettera personalissima e per niente lunga. Comunicate al principe ereditario di Svezia che noi siamo ritornati a Parigi per preparare la definitiva catastrofe dei nemici della Francia. L'imperatore si era alzato. Incominciò a passeggiare su e giù mentre osservava il pavimento. Pareva che lì fosse distesa la carta geografica d'Europa e gli vi camminava sopra con i suoi stivali infangati. Noi ricordiamo al principe ereditario di Svezia, quel giovane generale Bernadotte, che nella primavera del 1797 accorse con i suoi reggimenti in aiuto al generale Bonaparte. Quel passaggio delle Alpi, compiuto in brevissimo tempo, fu decisivo per l'esito vittorioso della spedizione d'Italia. Vi ricorderete di questo, madame? Feci cenno di sì. L'imperatore si rivolse a Caulaincourt. Il passaggio delle Alpi, compiuto da Bernadotte, è studiato come classico esempio in tutte le accademie militari. La sua esecuzione è stata magistrale, magistrale! Mi portò dei reggimenti dell'armata del Reno che si trovavano prima al comando di Moreau. Si interruppe. Un ciocco crepitò nel camino. Moreau in esilio. Giambattista, principe ereditario di Svezia. Rammentate prima di tutto a Bernadotte, l'esercito di soccorso che mi portò in Italia, e poi le battaglie in cui lui difese la giovane Repubblica, e poi la canzone «Le Régiment des Sambre et Meuse marche toujours au cri de la liberté suivant la route glorieuse». Scrivetegli che 2 settimane fa ho udito questa canzone tra la neve della Russia. Due granatieri che non potevano procedere oltre si stavano scavando una buca nella neve. Mentre aspettavano i lupi, cantavano questa canzone. Si trattava probabilmente di antichi camerati di vostro marito, dell'armata del Reno. Non dimenticate di citare questo episodio. Io mi affondai le unghie nel palmo delle mani. Il maresciallo Bernadotte ha consigliato lo zar di assicurare la pace europea con la mia cattura durante la ritirata. Potete annunziare a vostro marito, madame, che il suo piano è quasi riuscito, ma soltanto quasi. Io mi trovo qui, nel vostro salotto a Parigi, e la pace d'Europa verrà assicurata, madame, per annientare definitivamente i nemici della Francia e con essi anche quelli di una pace durevole. Io offro un'alleanza alla Svezia. Per esprimermi più semplicemente, voglio che Bernadotte marci di nuovo con me. Scrivete questo testualmente a vostro marito, madame. Io assentii. Per sopperire alle spese degli armamenti, la Svezia riceverà mensilmente 1 milione di franchi, per di più merci per un valore di 6 milioni. Il suo sguardo si fissò sul volto del giovane conte Rosen. Dopo la conclusione della pace, sarà assegnata alla Svezia la Finlandia e naturalmente anche la Pomerania. Fece col braccio un gesto grandioso. Scrivete a Bernadotte che gli saranno date la Finlandia, la Pomerania e la Germania settentrionale da Danzica al Mecklenburgo, va bene? Conte Rosen, prendete un foglio e scrivete tutto questo. A quel che pare la Svezia otterrà, dopo la definitiva conclusione della pace, tanti territori che noi due non riusciamo neppure a ricordarli. Non occorre. Ho qui un memorandum che Sua Maestà mi ha dettato nel pomeriggio di oggi, intervenne Caulaincourt. Cacciò la mano nella tasca interna della giubba e porse a Rosen un foglio vergato a fitti caratteri. Il conte Rosen lo scorse con occhi increduli. La Finlandia! Noi rinsalderemo di nuovo la posizione della Svezia come grande potenza, disse Napoleone e sorrise al conte Rosen. Era il suo sorriso conquistatore di una volta. E poi questo interesserà a voi come svedese, mio caro giovane. Ho fatto ricercare negli archivi del Cremlino una descrizione della spedizione di Russia del vostro eroico re Carlo XII. Mi è stato detto che in Svezia voi venerate come sacra la sua memoria. Volevo imparare qualche cosa delle vittorie di questo re eroico. Il conte Rosen era raggiante di gioia. Ma purtroppo ho dovuto accertare che la nazione svedese quasi si dissanguò nelle guerre del suo eroico re, che in seguito alle imposte di cui egli l'aggravò si ridusse in miseria, sorrise ironico e compiaciuto. Mio caro giovane, suppongo che anche negli archivi di Stoccolma si possano trovare descrizioni dell'avventura russa del vostro Carlo XII. Qualcuno in questi ultimi tempi ha imparato molto da esse. Il vostro, come lo chiamate? Il vostro Carlo Giovanni, il mio vecchio Bernadotte. Alzò le spalle, prese fiato e volse gli occhi verso di me. Madame, voi scriverete domani a Bernadotte, io devo sapere come regolarmi. Mi alzai. Sono stanco, così terribilmente stanco, mormorò. Volevo parlare alla principessa ereditaria di Svezia, ma tu sei anche Eugenia. Fatevi condurre alle Tuilerie, sire, riposatevi bene. Egli scosse il capo. Non posso, cara. I cosacchi avanzano e Bernadotte ha combinato la coalizione Russia, Svezia, Inghilterra. L'ambasciatore austriaco a Stoccolma pranza spesso con lui. Sai tu che cosa vuol dire questo? Adesso mi chiama di nuovo Eugenia e ha addirittura dimenticato che io sono maritata a questo Bernadotte. Quest'uomo ha davvero troppe cose per la testa. E allora, a che pro la mia lettera, sire? Perché io cancellerò la Svezia dalla carta geografica se Bernadotte non marcerà con me, urlò di nuovo. Poi, con una mossa improvvisa, si volse per uscire. Mi porterete personalmente la risposta di vostro marito, madame, e se fosse un rifiuto, prenderete nello stesso tempo congedo da me. Non sarebbe più possibile in tal caso ricevervi a corte. Né io più ci verrei, sire. Il conte Rosen accompagnò fuori l'imperatore e il conte Caulaincourt. Sul tavolo, davanti al divano, stava il foglio con l'accurata scrittura di Caulaincourt, la Finlandia, con un punto esclamativo, e la Pomerania, la Germania settentrionale, da Danzica al Mecklenburgo. Prima ha nominato i suoi marescialli, adesso cerca di comprarli. Lentamente passai da un candelabro all'altro e spensi le candele. Ritornò Rosen. Vostra Altezza scriverà domani al principe ereditario? Feci cenno di sì, e voi, conte, mi aiuterete. Crede vostra Altezza che il principe ereditario risponderà all'imperatore? Ne sono convinta, e sarà l'ultima lettera che mio marito scriverà all'imperatore. Osservavo le fiamme morenti nel camino. Vi restava molta cenere. Non vorrei lasciar sola vostra Altezza proprio ora, disse esitante Rosen. Ciò è molto gentile da parte vostra, ma io sono sola, terribilmente sola. E voi siete troppo giovane per comprenderlo. E poi voglio andare da Maria a confortarla. Trascorsi il resto della notte presso il letto di Maria, le promisi di scrivere a Murat e al maresciallo Ney, e si intende al colonnello Villat, del quale non avevo più notizie da alcune settimane. Le promisi di partire con lei in primavera per le steppe russe alla ricerca di Pierre. Promisi e promisi, e nella sua angoscia, ella era come una bambina e credeva davvero che io potessi aiutarla. Oggi delle edizioni straordinarie annunciano che l'imperatore è improvvisamente tornato dalla Russia. La salute di Sua Maestà non è mai stata migliore.